Europa, Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli. Cari ascoltatori, ancora un saluto, un buon ben ritrovati in questo appuntamento con l'Europa, da Gigi Donelli al microfono, da Carmelo Lauricella in regia, da tutti noi di Radio 24. Ripartiamo dall'accordo sul nucleare iraniano che viene messo in discussione dagli Stati Uniti. Reazione questa volta abbastanza secca e chiara da parte della Commissione Europea: funziona, sta dando i suoi risultati, così dice Bruxelles, dice la portavoce dell'esecutivo, richiamando appunto le posizioni espresse dall'alto rappresentante Mogherini. Mogherini ha detto chiaramente che l'accordo non può essere rinegoziato, ha spiegato appunto la portavoce, il riferimento chiaro alle intenzioni di Donald Trump, che a sua volta ha accusato Teheran di non avere rispettato lo spirito dell'accordo, qualunque cosa questo possa significare. Il tutto mentre viene riconosciuto il premio Nobel per la pace all'ICAN, o ICAN che dir si voglia, organizzazione no profit fondata nel 2007, che raccoglie 406 organizzazioni partner in 101 paesi. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2017 to the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. È stato assegnato all'Organizzazione per il Bando alle Armi Nucleari il Premio Nobel per la Pace 2017, il riconoscimento più prestigioso e atteso della settimana dei Nobel. Il premio è stato assegnato alla ICAN per il suo ruolo nel fare luce sulle catastrofiche conseguenze di un qualunque utilizzo di armi nucleari e per i suoi sforzi innovativi per arrivare a un trattato di proibizione di queste armi. L'ICAN, l'organizzazione no profit fondata nel 2007, raccoglie 406 organizzazioni partner di 101 paesi. L'annuncio ha di fatto rispettato le previsioni che, con la crisi nordcoreana in corso e il braccio di ferro tra Teheran e Washington sul trattato nucleare iraniano, davano questo tema come il favorito nelle preferenze dei selezionatori. Il comitato ha rivolto un appello agli stati perché si avviino, ha detto, negoziati rivolti alla graduale eliminazione dal mondo delle 15.000 armi nucleari. Il prossimo sforzo, ha aggiunto, deve riguardare gli stati che hanno l'atomica. Cristina Carpinelli, Radio 24. Il Sole 24 Ore. We have not yet made the sufficient progress needed. The negotiator made good progress on citizens' rights. Jean-Claude Juncker parla, forse l'avete riconosciuto, il tema è il negoziato sulla Brexit. Dice: non abbiamo ancora fatto il progresso richiesto. Il discorso di Theresa May a Firenze, ne abbiamo parlato due settimane fa, ha avuto un tono ottimistico, dice Juncker, ma aggiunge: i discorsi non sono posizioni negoziali. Dunque restano le distanze sulla tutela dei diritti dei cittadini UE nel Regno Unito. Resta da trovare un accordo sull'indispensabile ruolo della Corte di Giustizia Europea, in sostanza se c'è una divergenza secca tra UE, tra Bruxelles, tra noi e Londra, chi decide? Beh, l'Europa vuole che a farlo sia la Corte di Giustizia Europea, appunto. E poi, per quanto riguarda il nodo degli accordi finanziari, Juncker dice: il diavolo sarà nei dettagli, e sulla questione dell'Irlanda del Nord appunto servono, aggiunge, soluzioni che rispettano pienamente il diritto europeo. Adesso, sempre su questo tema ma naturalmente da una prospettiva diversa, Leonardo Maisano ci aggiorna da Londra. Non bastavano gli attacchi del suo ministro degli esteri Boris Johnson o lo sberleffo di un attore che le ha sventolato sotto al naso la lettera di licenziamento. Theresa May ha anche perso la voce nel suo discorso finale al congresso conservatore, uno speech dedicato al capitalismo sociale di cui ora la premier britannica si sente espressione compiuta, anche per far fronte alla svolta a sinistra di un partito laburista radicalizzato e rigenerato. L'obiettivo di lasciare la Brexit ai margini del congresso, Theresa May non lo ha centrato, e non solo per gli attacchi di Johnson. La separazione anglo-europea permea ogni istante della vita politica ed economica del Regno e credere che potesse restare ai margini dell'annuale assise politica dei partiti britannici era un'illusione. La Brexit nei saloni di Manchester è echeggiata di continuo, raccontando di una Gran Bretagna assai diversa da quella dello scorso anno, quando era di moda la parola d'ordine Brexit significa Brexit, metafora di un addio duro. Oggi al divorzio radicale non crede nessuno, forse nemmeno i Brexiters più estremisti. E dunque la parola non tanto d'ordine, ma la parola obbligata per tutti è trattativa, trattativa. E a proposito di trattative, ce n'è un'altra in corso e che sottintende proprio una corsa, che è quella per le agenzie. EMA, EBA sono le due authority UE, agenzia del farmaco e quella bancaria europea, che da Londra devono appunto muoversi altrove. Una gara iniziata di fatto in aprile, quella ufficiale più recentemente. Sapete anche che Milano è in prima linea e che punta in particolare all'EMA, ma dovrà vedersela con altre candidate: Amsterdam, Copenaghen, Bratislava, insomma sono almeno 19. Del resto il boccone è veramente ghiotto, i numeri bastano a spiegarlo: 890 persone e lo staff che appunto costituisce l'Agenzia Europea del Farmaco. Ma adesso Chiara Bussi ci racconta il mondo delle agenzie UE. Sentiamo. La nostra è una candidatura competitiva. Confido nel fatto che la competizione sarà una competizione basata sulla qualità delle offerte, la qualità dei territori e non su strani criteri di riequilibrio geopolitico. Penso che tutto il nostro sistema debba lavorare a testa bassa per questo obiettivo. Noi non saremo dei cubertiniani in questa partita, con tutto il rispetto naturalmente per lo spirito olimpico. Ce la giochiamo per vincere, sappiamo che le partite si vincono e si perdono, ma questa partita Milano, la Lombardia e l'Italia la giocano per vincere. Con queste parole, pronunciate lo scorso luglio, il premier Paolo Gentiloni ha candidato ufficialmente Milano a sede dell'EMA, l'agenzia del farmaco europea che con la Brexit dovrà traslocare da Londra. Il verdetto arriverà con il voto del ministro degli esteri dell'Unione il 20 novembre, insieme al responso sulla nuova sede dell'EBA, l'autorità bancaria europea. La corsa all'EMA e all'EBA accende i riflettori sulle agenzie europee. In tutto oggi sono 45, dislocate in 24 paesi, con funzioni di supervisione, consulenza, analisi del rischio in tutti gli ambiti di competenza comunitaria e per l'attuazione di grandi programmi e strategie lanciati da Bruxelles. Da Horizon 2020 alla nuova legislazione sulle TLC o sulle ferrovie. Contano su uno staff di circa 10.000 persone e costano al bilancio europeo 1 miliardo e 200 milioni di euro all'anno. Le più numerose sono a Bruxelles. Il quartier generale delle istituzioni europee ne conta infatti 9, di cui 7 sono partenariati pubblico-privati. La Spagna è riuscita ad aggiudicarsene 5. Tra queste spicca l'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale ad Alicante. In Francia sono presenti 4 antenne dell'Unione, tra queste l'ESMA, la Consob europea che sorveglia il mercato finanziario, e l'Agenzia europea per la rete ferroviaria. L'Italia, insieme alla Germania, ne ha 2. La prima è l'Agenzia per la sicurezza alimentare di Parma, nata nel 2002 su proposta della Commissione, dopo gli scandali della mucca pazza e dei polli alla diossina. C'è poi la Fondazione europea per la formazione, con sede a Torino. La Germania ospita invece l'Agenzia europea per la sicurezza aerea e l'Autorità europea per le assicurazioni, e ora punta l'autorità bancaria. L'Olanda si mette invece in luce con Eurojust, l'unità di cooperazione giudiziaria sulla criminalità organizzata, ed Europol, l'ufficio di polizia europeo che tratta circa 40.000 casi all'anno. Sarà dunque novembre il mese della risposta, almeno per quello che riguarda Milano, ma insomma per le agenzie, quindi per le nuove destinazioni di EMA ed EBA, che come abbiamo detto lasciano Londra per evidenti ragioni storico-politiche e cercano nuove case. Ecco, quello che faremo tra poco, dopo gli aggiornamenti per chi è in viaggio, è anche entrare un po' più nei dettagli. Abbiamo detto 890 posti di lavoro, naturalmente questo è importante, è interessante per qualsiasi città oggi più che mai. Poi in realtà ci sono anche dei lavori che riguardano i più giovani, i giovani neolaureati, neolaureandi. Ne abbiamo parlato nelle puntate precedenti, ci avete chiesto informazione. Bene, adesso cominciamo da questa settimana a darvi degli aggiornamenti puntuali sui posti pagati e con durata che sentirete variabile, cui tendere, cui fare richieste, naturalmente cui candidarsi all'interno dell'Unione Europea. Tra poco! Faircam Distribution, spedizioni in Italia ed Europa su misura. Faircam.com. Vi presento. Europa, Europa. Ben ritrovati da Gigi Donelli al microfono, da Miriam Lucchetti in assistenza, da Carmelo Lauricella in regia. In questa seconda parte di Europa Europa, come vi ho anticipato, ci occupiamo anche di possibilità appunto di stage per giovani laureati, giovani laureandi. Cerchiamo di, come dire, dare senso al nostro sottotitolo che recita "L'Unione utile fa la forza". È chiaro che Bruxelles e Strasburgo, insomma le istituzioni europee, sono, come spesso vengono accusati di essere, solo anche un grosso meccanismo burocratico. Difficilmente potrebbero essere diversamente, visto appunto la partecipazione degli stati che lo compongono, e naturalmente all'interno di questo ci sono anche una serie di possibilità. In particolare mi riferisco dunque a quegli stage, qui parliamo del Parlamento europeo, che durano circa 5 mesi, assicurano 1.100 euro al mese per chi se li conquista. Sono stage pagati al Parlamento europeo a Bruxelles e a Strasburgo. Ci avete chiesto informazioni in proposito attraverso la nostra mail europa@radio24.it, e allora ecco la spiegazione di Federico De Girolamo dell'ufficio stampa del Parlamento che ha sede a Bruxelles. Il Parlamento europeo in effetti propone varie possibilità di tirocinio o di stage, a seconda del termine che preferiamo utilizzare, presso il proprio segretariato generale, quindi al Parlamento, con l'idea di offrire un'opportunità di seguire un percorso professionale, di approfondire le conoscenze che magari i ragazzi hanno già acquisito durante i loro studi, e ovviamente conoscere da dentro come funziona il Parlamento europeo. Dicevo, ci sono varie opzioni, e diciamo quella principale, quella più utilizzata, è il cosiddetto stage tirocinio Robert Schuman, che è quello aperto per i diplomati universitari, quelli che hanno terminato l'università o che la stanno per terminare. In questo senso applicare è possibile farlo sul sito del Parlamento europeo, anzi la candidatura è solo esclusivamente online, ed è offre vari indirizzi anche nelle possibilità poi del lavoro che si svolge. C'è quella generale, aperta a tutti i candidati che soddisfano le condizioni e che possono esprimere le loro preferenze nei vari campi di esperienza che preferiscono, non so, politica estera, sviluppo o mercato interno. Esiste poi un'opzione più specifica, che è cosiddetta Robert Schuman opzione giornalismo. In questo caso chiaramente può candidarsi solo chi ha un'esperienza già comprovata da pubblicazioni o dall'iscrizione all'ordine dei giornalisti. E poi c'è una terza opzione che riscontra sempre più il favore, diciamo così, e interesse esterno, che è quella sul premio Sakharov, qui sui diritti umani. I numeri generali sono intorno alle 25.000 candidature che il Parlamento europeo riceve ogni anno, e vengono selezionati, e quindi effettivamente fanno lo stage, circa 600 persone. Ecco, per chi, sentendo questa spiegazione, fosse interessato, adesso va sul sito, e entro quando deve fare la domanda? Esatto, adesso va sul sito e deve farlo velocemente, perché l'iscrizione scade il 15 ottobre a mezzanotte. Quanto si guadagna e quanto durano? Durano 5 mesi e sono pagati più o meno 1.100 euro, dico più o meno perché varia di qualche euro, ma insomma hanno un compenso di 1.100 euro che per una città come Bruxelles, con qualche accorgimento, ti permette di viverci, non nel lusso, ma di viverci, e quindi poter fare un'esperienza che è interessantissima sia dal punto di vista professionale, ma anche umano e diciamo sociale. Grazie a Federico De Girolamo, appunto, dell'ufficio stampa del Parlamento Europeo a Bruxelles. Visto che abbiamo parlato, abbiamo segnalato, lui lo ha fatto, un sito in particolare con sottositi. Bene, per chi avesse interesse, da un lato ricordate, attenzione, la data, quindi non è che manca molto per questo round, una settimana, dopodiché ci saranno quelli successivi, una settimana per la scadenza di questo bando. Trovate tutti i dettagli sul sito di radio24.it, naturalmente alla pagina di Europa Europa. E adesso parliamo di turismo. Pensiamo a un viaggiatore straniero, magari australiano, americano, cinese, qualcuno che decide di realizzare un sogno. L'Europa per molti è davvero un sogno, visitare una meta così lontana, però il costo è importante, anche la logistica. Insomma, noi abbiamo la stessa sensazione o sentimento quando pensiamo di esplorare regioni lontane del pianeta. Ovviamente vale anche per chi viene a trovarci. Poi ci sono i dubbi, pensate se foste nei panni di un cinese che deve decidere, magari ha una visione anche relativa, un po' confusa delle città, dove vado, Roma, Parigi, Budapest, Lisbona, insomma. Questa è un po' la visione tradizionale del turismo. Adesso, in particolare, il presidente del Parlamento europeo, Tajani, insiste molto sul fatto che sia tempo di cambiare, organizzando quello che, nella sua idea, dovrebbe essere un vero turismo europeo di questo XXI secolo. Sentiamo su questo il servizio di Laura Cavestri. Promuovere l'Europa come unico brand del turismo. Non Parigi in competizione con Roma o Londra, ma pacchetti integrati con percorsi transnazionali capaci di valorizzare più mete e più paesi insieme. È l'obiettivo che l'Unione Europea, in collaborazione con l'UNESCO, si è data nel corso degli Stati Generali del Turismo, che si sono svolti nella sede del Parlamento Europeo a Bruxelles. Un viaggiatore cinese oggi visita in media 4 o 5 Stati europei, quindi i concorrenti dell'Italia non sono Francia o Spagna, ma Caraibi e Nord America. Così il presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha aperto i lavori, affermando che il turismo deve essere considerato come un vero e proprio asset industriale. Del resto oggi il suo peso è pari a oltre il 10% del PIL europeo, circa 1.500 miliardi di euro. Il Parlamento europeo ha chiesto un capitolo di spesa specifico per il turismo nel prossimo bilancio dell'Unione, un fondo di almeno 25 milioni di euro l'anno con un effetto moltiplicatore sugli investimenti privati. Con l'obiettivo al 2025 di avere il doppio dei turisti in Europa, un miliardo di arrivi, e di creare oltre 5 milioni di nuovi posti di lavoro. Ma in Europa il parere non è unanime. Il margine per nuovi finanziamenti è stretto. Per il vicepresidente Katainen vanno utilizzati i fondi strutturali del piano Juncker per aiutare le PMI del turismo, magari in combinazione con fondo sociale e di sviluppo regionale. Il problema è però a monte. Il turismo resta per lo più una competenza degli stati membri, in Italia anche delle regioni, da cui egoismi, dispersione di fondi e iniziative in ordine sparso. Una miopia che rischia di costarci cara, perché se oggi l'Europa resta l'area più visitata al mondo con il 51% della quota mondiale, nel 2030 potrebbe scendere al 40%, mentre la sfida è riuscire ad attrarre il nascente ed esigente turismo cinese. Laura Cavestri, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso parliamo di Amazon e di una vicenda che ha creato non poche polemiche. Hanno protestato, tra i molti, gli europarlamentari del Movimento 5 Stelle, che hanno attaccato esplicitamente Jean-Claude Juncker per questa vicenda, appunto la vicenda Amazon, e ne hanno chiesto le dimissioni. Vabbè, questo effettivamente accade abbastanza spesso. Ma qual è la questione? La decisione dell'antitrust europeo ha deciso di impegnare Lussemburgo, paese di cui Juncker è stato a lungo il premier, a recuperare 250 milioni di tasse non pagate da parte della multinazionale. Insomma, il piccolo Stato europeo, secondo i 5 Stelle, ma non solo, ci guadagna due volte. Da una parte ha accettato i soldi a suo tempo e adesso chiede appunto il ritorno. Ma sentiamo tutti i dettagli nel servizio di Enrico Pagliarini. Amazon dovrà pagare circa 250 milioni di euro per avere beneficiato di vantaggi fiscali concessi illegalmente dal Lussemburgo, che ora dovrà recuperare il denaro. The Commission has today adopted a decision that Amazon's tax benefits are La commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager ha spiegato che Amazon ha pagato per 8 anni un quarto delle tasse rispetto ad altre società residenti nel paese. A livello europeo i cosiddetti tax ruling, ovvero accordi fra aziende e amministrazioni fiscali, non sono illegali di per sé, ma lo diventano quando danno un vantaggio competitivo a danno degli altri concorrenti del mercato europeo, come in questo caso. Amazon respinge le accuse, come in passato hanno fatto altre società. Nel caso del Lussemburgo, ad esempio, l'antitrust europeo è intervenuto per la seconda volta, dopo che 2 anni fa aveva giudicato illegali gli accordi fiscali concessi a Fiat Finance and Trade. E in Lussemburgo è ancora aperto il dossier McDonald's. Il contenzioso più pesante a livello europeo è con Irlanda e Apple. Secondo Bruxelles, l'azienda californiana ha goduto di sconti fiscali illegali e dovrebbe restituire 13 miliardi, ma la stessa Irlanda, che contesta la decisione e non ha ancora recuperato il denaro, è stata ora deferita dalla Commissione alla Corte di Giustizia Europea. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È chiaro dunque, l'Irlanda non ha recuperato il denaro perché non vuole recuperarlo, perché nel momento in cui, battesse i piedi per recuperarlo, le multinazionali troverebbero molto meno interessante l'Irlanda o chi per essa come destinazione. E la situazione paradossale, appunto, rispetto ad Amazon è che l'Unione Europea ordina ad Amazon di restituire i soldi a chi? A Lussemburgo, che così in questo caso otterrebbe un altro importante beneficio. Ma anche questa è sicuramente l'Europa nella sua complessità, nelle sue distorsioni. Insomma, qui c'è spazio per tutto, spazio anche per le vostre domande, come sempre europa@radio24.it. siamo in conclusione. Da Gigi Donelli, da Miriam Lucchetti, da Carmelo Lauricella in regia, l'augurio di un ottimo fine settimana. Ci risentiamo appunto sabato prossimo.